Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Maurizio Carucci, che è in collegamento telefonico con noi per parlarci del suo Respiro Tour che partirà tra qualche giorno. Ciao Maurizio, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Il Respiro Tour, come dicevo prima, inizierà questo 16 novembre, ti esibirai prima a Milano e poi arriverai a Bologna al Locomotive Club giovedì 17, poi seguiranno altre due date. Questo tour presenterà il tuo primo lavoro da solista, l'album Respiro, uscito lo scorso 1 aprile. Inizierai proprio da qui e da questo tuo progetto. Come nasce Respiro? Diciamo che negli ultimi tempi ho passato dei periodi un po' difficili, diciamo, mettiamola così. E fondamentalmente, per una serie di ragioni, fondamentalmente mi ero reso conto che avrei dovuto, per uscirne un po', avrei dovuto stare un po' da solo, cioè con la mia musica, un po' praticare un po' di solitudine. Quindi Respiro è nato così, non è mai nato come disco, ho sempre scritto delle canzoni, che poi alla fine ho deciso di raggrupparle, di farne un disco. E devo dire che è stato molto curativo, molto medicamentoso. Posso dire, dopo un po' di mesi, che effettivamente ha funzionato, nel senso che mi sento piuttosto bene, mi sento un po' risolto rispetto agli ultimi tempi e quindi è viva. Come ultimo tassello, tra l'altro, di questo tuo progetto, del progetto Respiro, è uscito lo scorso 28 ottobre il brano Inimmaginabile. Come si unisce al lavoro precedente e come chiude un po' questo cerchio? Ma sai, come si unisce non lo so bene. Diciamo che con Respiro, più che altro Respiro per me è un po' una transizione, no? Da come ho sempre lavorato e da come ho sempre frequentato un certo pop a quello che in realtà poi sarebbe dovuto essere una cifra molto mia, nel senso, come dire, dalla scrittura del pop classico tago carucciano alla metamorfosi per arrivare al pop solo di Carucci, no? Quindi lo trovo come un disco un po' di transizione. Forse Inimmaginabile invece rientra un po' più, forse sta già delineando un po' la mia scrittura, quella che è la mia solista e quella che forse sarà anche in futuro la mia solista. E quindi è un brano assolutamente essenziale, ci sono pochi strumenti, tutti registrati in maniera super analogica, non ci sono drum, non ci sono loop, è tutto suonato, dalla batteria al basso, agli archi. Ed è un brano che in qualche modo vuole essere appunto una piccola opera di artigianato. Il piano l'ho deciso io, come le voci. In questo momento amo molto la musica artigianale, che si fa più con le persone, gli strumenti, rispetto ai MIDI, alle applicazioni, tutto ciò che concerne ai plugin. Perché in questo momento amo la musica che batte, che ha un'anima, piuttosto che quella fatta dei plugin, eccetera. E sto cercando banalmente di metterle in atto. Sulla base anche di questa descrizione, un po' di questo tuo stile, nello stile che troveremo poi all'interno dei tuoi lavori, ti chiedo, prima ho citato Milano, la prima tappa, e poi Bologna, la seconda tappa del Respiro Tour, ti chiedo di raccontarci poi quali saranno le altre tappe e cosa porterà Maurizio Carucci sul palco per il Respiro Tour. Ma guarda, le altre tappe sono Torino il 24 novembre all'Hiroshima Mon Amour e Roma il 26 novembre all'Arcovenio. Sarà un concerto abbastanza sperimentale, nel senso che soprattutto negli ultimi tempi mi sto molto confrontando con la scrittura lunga, non soltanto una scrittura fatta di canzoni. E mi piace anche condividerla con le persone, questi scritti. Quindi sarà un concerto che sicuramente ci sarà la musica, la mia musica, la musica anche dell'ex Otago, ma ci saranno anche letture, discorsi, confronti, condivisioni. Sarà un concerto dinamico, dove mi piacerebbe anche molto stare a contatto con la gente, mi piacerebbe scendere dal palco. Ho questa fortuna di poter fare anche un tour più intimo rispetto a quelli che ho fatto ultimamente con Fibra, piuttosto che con l'ex Otago, quindi voglio sfruttare al massimo questa possibilità, anche perché ne veniamo da un momento di reclusione sociale terribile, quindi ora vorrei un po' approfittare. Maurizio, io ti ringrazio e ti auguro anche un in bocca al lupo per il Respiro Tour, grazie ancora. Grazie. Evviva Radio Fujiko, ciao a tutti.